Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, benvenuti all'appuntamento con la cronaca su Radio 24, le storie che non t'aspetti. Questa è l'Italia in controluce. Sono di nuovo i giorni dell'emergenza rifiuti in Campania, ma in realtà quando parliamo di questa situazione e vediamo le immagini dell'immondizia nei telegiornali per strada, parliamo soprattutto di Napoli e provincia. Ci sono infatti, e non solo al nord, casi di eccellenza nella raccolta differenziata, ad esempio come accade a Salerno. Ce ne parla Maria Luisa Pezzali. Non è tutta Terzigno la Campania, c'è anche chi, in quanto a rifiuti, raggiunge l'eccellenza. Come Salerno, titolare di un record invidiato anche al nord. In un anno e mezzo la raccolta differenziata è passata dal 7 al 75%, spingendo la città in cima alla lista dei comuni virtuosi. Il segreto del miracolo si chiama raccolta a domicilio, giorni fissi per ogni categoria, carta, cartone, vetro, alluminio e plastica, per il ritiro sotto casa. E una squadra di 60 volontari che hanno spiegato casa per casa come dividere i rifiuti. Un bell'impegno, ma ne valsa la pena, ci dice con soddisfazione il sindaco Vincenzo De Luca. Nel nostro comune la raccolta differenziata ha comportato un incremento di costi di 19 milioni di euro. Potevamo contare all'inizio dell'anno un contributo dello Stato di 40 euro a tonnellate che poi incredibilmente è stato cancellato. Abbiamo raggiunto un risultato credo straordinario, siamo il primo capoluogo d'Italia per la differenziata. E avendo raggiunto questo risultato nel sud e in Campania, credo che abbiamo fatto un miracolo triplo. Questo però dobbiamo considerarlo un primo passo, perché la raccolta, ripeto, costa. Noi dobbiamo deciderci a questo punto ad imboccare la strada della realizzazione degli impianti per il trattamento dei rifiuti. Lei sa dove portiamo ancora oggi l'umido della Campania? O in Sicilia o a Padova, pagando 170 euro a tonnellate di costi di trasporto e di smaltimento, un autentico delitto. Allora ci siamo dotati di un impianto di compostaggio che entra in funzione alla fine dell'anno e abbiamo dato una disponibilità per realizzare un termovalorizzatore, pur non avendone necessità. E incredibilmente da un anno e mezzo attendiamo che ci diano il via libera per realizzare un termovalorizzatore. L'altro ingrediente della ricetta sono le multe. Multe di 500 euro per chi sversa fuori orario o fuori dei luoghi previsti. Entro il 2015, secondo quanto previsto dall'Unione Europea, tutti dovranno garantire almeno il 50% di raccolta differenziata. Al nord sono già pronti a farlo l'87% dei comuni, al sud il 10%, al centro solo il 2%. Anche qui però c'è chi può insegnare agli altri. Vedi Luca che per invogliare i cittadini si è inventata una tessera a punti con sconti sulla tassa rifiuti. Il vice sindaco e assessore all'ambiente Giovanni Pierami. E ogni cittadino che va presso le nostre stazioni ecologiche gli viene assegnata una tessera magnetica, sulla quale poi verranno registrate tutti i vari conferimenti che lui fa alle stazioni ecologiche, ossia se porta carta, se porta un frigorifero, se porta varie tipologie di rifiuti e tutte danno un punteggio secondo una tabella. Al termine dell'anno l'azienda verifica il punteggio che ogni cittadino ha accumulato e praticamente scala sulla tariffa dell'immondizia di quella famiglia, di quella persona, un quid in relazione al punteggio raggiunto. Noi abbiamo tre stazioni ecologiche dove si può accedere portando queste tipologie di rifiuti e praticamente c'è sempre la fila delle auto dei cittadini, infatti ne stiamo aprendo altre due. Nelle graduatorie noi è 8 anzi, che ci classifichiamo al primo posto come città riciclona, comune riciclone nel centro Italia. Distribuiamo il tritatutto da lavello e anche questo comporta per il cittadino che lo installa poi una diminuzione diminuzione della spesa sulla tariffa, così come il composter, che ne abbiamo date alcune migliaia in comodato d'uso ai cittadini che hanno un giardino, in modo tale che riduciamo la quantità di rifiuti che poi dopo dobbiamo trattare. Raccolta differenziata vuol dire meno rifiuti in discarica, quindi sul lungo periodo meno costi e meno anidride carbonica nell'ambiente. Ariace, pur di farla, il sindaco da anni si è inventato la raccolta ad orso d'asino, l'unico mezzo in grado di circolare tra i vicoli del piccolo centro. Un'eccellenza raccontata anche da Wim Wenders nel corto Il volo, per capire e far capire che un'altra Calabria, così come un'altra Campania, è possibile. Italia in controluce. Adesso ci spostiamo nel Cilento, in Campania. Il cantiere è pronto per ricostruire la condotta idrica nel fiume Sele dopo l'alluvione e l'introduzione dell'acquedotto. Aspettiamo il bel tempo, ha detto ieri l'assessore alla protezione civile Edoardo Cosenza, per risolvere questa questione. La corrispondenza di Raffaella Calandra. Sto caricando 30 litri. Che vi dureranno per quanto tempo? Non molto. Sto facendo dei viaggi avanti e indietro. Lavatrice, bagno, serbatoio. Ogni tanica ha la sua etichetta nelle auto incolonnate ad Agropoli davanti alla cisterna. Passata l'alluvione, il Cilento è ancora in fila per far fronte alla grande sete. Non potevo cucinare. Non potevo fare niente. Quanta acqua siete venuti a prendere? Un 40 litri. Io da stamattina che prendo acqua. Come vi state organizzando in questi giorni senza acqua a casa? Con i bidoni questi. Facciamo la fila come tutti e poi dopo riempiamo e andiamo a svuotare. Quella per cucinare come fate? La compriamo. 4-5 confezioni d'acqua. Per un giorno? Sì. E stamattina ho fatto pure due lavatrici. 18 volte sono tornata con 3 latte, 2 da 20 e una da 15. 15 comuni, 500.000 di abitanti senza acqua dopo la rottura di un tubo dell'acquedotto. Ora in qualche borgo si sta cercando una soluzione temporanea, ma per settimane sono stati così, senza acqua per cucinare, senza acqua per la doccia né per gli scarichi. Benvenuti al sud, il sud dell'alluvione che non ha fatto rumore. Il sud è rimasto senza acqua, ma con tanta capacità di arrangiarsi. L'emergenza idrica l'abbiamo affrontata in questo modo, con degli autobot del comune 24 ore su 24 su varie piazze del paese. Adesso invece avete fatto un accordo per far arrivare l'acqua nelle abitazioni. Una richiesta al CONSAC di Vallo della Lucania per 40 giorni, 60 litri al secondo circa, con una spesa da sostenere per la fornitura di 47.200 oltre IVA. Costabile Maurano è il sindaco di Santa Maria di Castellabate, quello di Benvenuto al sud. Qui, quando il sole spunta, luccica da una parte sul mare limpido del Cilento, dall'altra su campagne e fattorie dove le bufale producono il latte delle celebri mozzarelle. Gromola, Capaccio, Eboli, quando il Sele ruppe gli argini, non c'erano più confini, anse e allevamenti, ma solo acqua e solo la corsa disperata per mettere in salvo persone e animali. Qua siamo proprio al ponte chiamato Ponte del Diavolo. L'acqua arrivava più o meno all'altezza di quegli alberi in fondo lì, 5-6 metri in altitudine. Cercavamo di recuperare gli animali che stavano morendo. Cioè abbiamo visto le bufale che sono state travolte dalla piena del Sele. Sì, sì, ed era uno spettacolo bruttissimo. Quanti animali erano? Un 200, un 250 animali comunque. Si è bloccato il motore del gommone, la piena ci ha preso e ci è scaraventato in acqua. È tutto anche per oggi, scriveteci controluce@radio24.it. Buona giornata.